La sofferenza è la sola moneta internazionale che il mondo conosca. Non richiede né un interprete né un dizionario. Essa è stampata sulla faccia dell'umanità. Il dolore rappresenta la dicotomia più profonda. Produce una schiacciante sensazione di solitudine, mentre in realtà siamo tutti accomunati da questa esperienza. Può condurre una persona a odiare Dio proprio nel momento in cui ne ha più bisogno. Il dolore attizza la rabbia, evoca disperazione. I suoi sintomi sono azioni convulse. Un grido, un pugno serrato. Silenziose ondate nel cuore che sembrano soffocarne il battito, se non giunge un po' di sollievo. La sofferenza a prima vista è nemica, ma, quando la comprendiamo maggiormente, diventa un'amica molto cara. Noi non risolviamo i problemi, perché in primo luogo non accettiamo la sovranità di Dio. Una seconda ragione è dovuta al fatto che noi uomini rifiutiamo per istinto la sofferenza. Ma la vita cristiana, a dispetto di quanti predicano in altro modo, è principalmente cosparsa di sofferenza. Una bambina a un incontro di ragazzi mi ha fermato chiedendomi: "Il Signore ci ha ordinato di essere felici. Perché dobbiamo soffrire, cioè andare a scuola e studiare tutti i giorni?" Evidentemente, anch'essa aveva un'idea del cristianesimo un po' inesatta. Gesù ha promesso gioia e riposo mediante la sofferenza. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: "Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero." Matteo 11, 28-30. Gesù promette il riposo, lo stato d'animo di cui abbiamo bisogno per risolvere i nostri problemi. Però quello che sfugge a noi cristiani è che Gesù sta parlando di due tipi di riposo, e tutti e due condizionati da qualcosa. Il primo riposo è il risultato della conversione, e consiste nell'andare a Gesù. Il secondo riposo è quello che trova il cristiano nel portare il giogo di Cristo, unito alla mansuetudine e all'umiltà. Essere mansueti e umili significa accettare serenamente disagi, ostacoli, difficoltà. Prendiamo in esame il giogo di Cristo. Kos è il giogo. Peri è uno strumento di legno collocato con la parte interna, generalmente cava, sulla testa o sulla nuca di una coppia di buoi attaccati a un veicolo o a un aratro, perché avanzino dello stesso passo. L'immagine di cui si serve Gesù per affermare come il credente può trovare riposo non è scelta a caso, ma rispecchia perfettamente la realtà della vita cristiana. Innanzitutto il giogo è uno strumento che serve per lavorare. La vita cristiana è paragonata a un combattimento, non a un periodo di vacanze e di rilassamento. Chi cerca riposo non lo trova, chi cerca lavoro trova l'uno e l'altro. Se ti senti stanco in partenza, è probabile che tu non stia portando niente e di conseguenza non sarai un membro attivo nella Chiesa. Inoltre, il giogo bisogna portarlo in due, e il secondo, in questo caso, è Gesù. Quando il cristiano soffre, non è solo, ha un compagno che, essendosi fatto uomo, comprende ogni sofferenza umana. Terza cosa, il giogo ti vincola ad andare dove va il tuo compagno. Se lo segui avrai delle sofferenze e dei carichi leggeri. Se desideri andare dove vuoi tu, le contrarietà diventeranno insopportabili, produrranno depressioni, amarezze, rancori. Se la situazione che vivi è insostenibile, allora devi rivedere il tuo cammino davanti a Dio, perché le ragioni sono due: o quello che Gesù ha affermato non è vero, oppure stai portando pesi e problemi che non vengono da Dio. La volontà di Dio, oltre ad essere buona e perfetta, è anche gradita o accettevole. ALCUNITPDISOFFERENZA. Per quanto posso arguire, distingo cinque tipi di sofferenza. 1. Naturale. 2. Giusta. 3. Ingiusta. 4. Di astinenza. 5. Cristiana. esaminiamole dettagliatamente. 1. Sofferenza naturale. Perché soffriamo? Questa domanda è vecchia quanto l'uomo. Come cristiani si è tentati subito di affermare che è un mistero della fede, ma ciò significa spiritualizzare l'aspetto umano. Prima di essere dei cristiani, i credenti sono degli uomini che vivono in un universo retto da leggi giuste, buone e uguali per tutti. Secondo le circostanze, una medesima legge può avere effetti diversi. Esiste la legge di gravità. Essa ci permette di camminare, ma se cadiamo nel vuoto ci facciamo del male. Il fuoco scalda, ma se ci avviciniamo troppo ci brucia. L'acqua disseta, ma chi non sa nuotare e si trova in mare annega. Questi esempi spiegano che non esiste nessuna legge i cui effetti siano esclusivamente o a senso unico. La luce illumina, ma può anche accecare qualcuno che esce dal buio completo. Un'altra riflessione sulla sofferenza ci porta a considerare l'immutabilità delle leggi di natura. Queste impediscono che il mondo in cui viviamo sia uniformemente piacevole per tutti allo stesso tempo. Dove vi è una montagna, chi scende cammina agevolmente, chi sale fa fatica. Inoltre, una grande varietà di condizioni fisiche e di sensibilità individuali impediscono un accordo totale per tutti. In estate il caldo è piacevole per alcuni, per altri no. Due giovani amano la stessa ragazza. Quando essa fa la sua scelta, uno è felice, l'altro soffre. Infine, molta sofferenza nasce dall'ignoranza e dalla disarmonia. Il bambino vede la candela e la tocca. Sono distratto sul lavoro e mi ferisco un dito. Attraverso con il semaforo rosso e provoco un incidente. Lascio aperto il gas e scoppia la casa. Questi esempi sono sufficienti a farci comprendere che non possiamo sempre attribuire la sofferenza alla divinità, a un essere superiore. Soffriamo soltanto perché esistiamo, punto e basta. Giustamente osserva l'Ecclesiaste, tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre. Tanto è il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Ecclesiaste 9, 2. Sotto questo aspetto vi sono preghiere che non hanno senso. Il Signore fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. È sbagliato pregare Dio che faccia splendere il sole solo perché noi dobbiamo intraprendere un viaggio. Anche perché contemporaneamente altri credenti che coltivano la terra potrebbero pregare perché cada la pioggia. 2. Sofferenza giusta. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. 2 Tessalonicesi 1, 6. Secondo l'affermazione di Paolo, è giusto per coloro che producono sofferenza ai cristiani ricevere da parte di Dio delle afflizioni. Non per nulla Dio ordina ai credenti di non far vendetta, ammonendo: a me appartiene la vendetta e la retribuzione. Ebrei 10 e mezzo. Lo stesso principio vale per i cristiani. Paolo scrisse ai Galati: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne. Ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Galati 6, 7. Come esiste quindi una legge nel campo naturale, se semini grano raccogli grano, esiste anche una legge spirituale, se fai del male ricevi del male. Il cristiano salvato per grazia non è esente da questa legge. Dio è amore. Il Vangelo è un messaggio d'amore, ma è vero anche che Dio è l'autore del male. Chi fa torto riceverà la retribuzione del torto. Colossesi 3, 25. Forse questo è il principio più difficile da accettare per i cristiani. Io soffro perché me lo merito. Giona subì la conseguenza di stare 3 giorni e 3 notti nel ventre di un pesce perché aveva disubbidito a Dio. Sansone diventa cieco e più tardi morirà per aver ceduto alle attrattive di una donna. La vita di Davide fu caratterizzata da continue sofferenze familiari per aver studiato e realizzato un piano per commettere un adulterio o un omicidio. Saul passò tutta una vita tormentata a causa del suo orgoglio. Alcuni cristiani di Corinto erano infermi o malati, altri ancora morivano perché non discernevano nel pane e nel vino che prendevano alla cena del Signore il corpo e il sangue di Cristo. Due sposi, Anania e Saffira, morirono per aver mentito di comune accordo agli apostoli. Conviene quindi chiederci perché quando riceviamo dei torti ci ribelliamoci. Noi non abbiamo mai fatto un torto? Non ci ha forse avvertito Gesù? Che come giudichiamo saremo giudicati, perché rimaniamo offesi se siamo giudicati severamente? Non abbiamo noi mai giudicato in questo modo? La permalosità non ha forse sede nel nostro orgoglio? Quando il Signore tratta duramente certi suoi figli, non risponde forse alla loro preghiera? Rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, meno? Quindi, alcune sofferenze ci toccano proprio perché noi le chiediamo. Possiamo noi accusare Dio delle risposte alle nostre preghiere? 3. Sofferenza ingiusta. Il libro dell'Ecclesiaste è stato scritto da chi ha investigato con saggezza tutto quello che si fa in questa vita. Nella sua ricerca si è reso conto che ci è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Ecclesiaste 8 e 14. L'ingiustizia sulla terra è all'ordine del giorno. Il cristiano non deve stupirsene. Proprio per questo l'apostolo Pietro scrive: domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili, perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto ci è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze. Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati sanati. 1 Pietro 2:18-24. La sofferenza di cui parla Pietro in questo brano è quella ingiusta. Molto probabilmente questa è la sofferenza più difficile da accettare, ma se riflettiamo bene, un atteggiamento del genere è insensato per due motivi. Se la sofferenza è giusta, bisogna accettarla e tacere perché è la conseguenza dei nostri errori. Se invece non è la ricompensa dei nostri falli, dovremmo gioire proprio perché è l'unica sofferenza di cui ci si può rallegrare, dal momento che, essendo ingiusta, è ricompensata. Non ha forse esclamato Gesù: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male? Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Matteo 5:11-12. Non vi è lezione più grande per i cristiani di quella di imparare a rallegrarsi quando si ricevono dei torti ingiustamente. Un'allegria questa, sia ben chiaro, non dovuta a masochismo, ma al risultato che essa produce. Se non sei un cristiano allegro nelle ingiustizie, i motivi sono due: o non soffri ingiustamente, oppure non credi sufficientemente al premio di cui Gesù ti ha parlato. Per cui, per qualsiasi motivo tu ritenga una cosa ingiusta, sappi che questa situazione viene da Dio. Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Lamentazioni 3:38. L'ingiustizia, la malvagità, ogni forma di peccato, producono nel tuo cuore una reazione di sdegno, di ribellione. Proprio per questo Dio ti ammonisce: non irritarti a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi. Proverbi 19:19. Vi sono situazioni che tu vorresti cambiare, vorresti che fosse fatta immediatamente giustizia, ma ancora una volta Dio ti ordina: sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nelle sue imprese, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno, non affliggerti. Ciò porterebbe anche te a far del male. Salmo 37, 7 a 8. Spesso, il conflitto interiore tra il desiderare che il malvagio riceva la giusta retribuzione e il perdono, tra la pace interiore e il sentimento che provoca l'ingiustizia, sembra non risolversi. Ma se vuoi trovare la vera pace e la risposta ai tuoi interrogativi, devi innanzitutto sradicare il tuo modo di vedere l'ingiustizia, le contrarietà ed entrare nell'ottica di Dio. Leggiamo ciò che sta scritto in riferimento a Dio, in Giobbe 11 e 12. Dio possiede la forza e l'abilità, da Lui dipendono chi erra e chi fa errare. Luzzi. Dio possiede forza e sapienza, da Lui dipendono chi è ingannato e chi inganna. Diodati. L'ingiustizia, le situazioni difficili, non sono eventi sfuggiti al controllo di Dio. Come leggiamo nella Scrittura, sia colui che inganna e fa sbagliare, sia colui che è ingannato e sbaglia, sono controllati di Dio. Se è vero che nessuno è dimenticato, perché 5 passeri si vendono per 2 soldi, 2 passeri si vendevano per 1 soldo, Matteo 10 e 29, per cui il quinto era regalato, eppure neanche uno di essi, anche quello senza valore, è dimenticato davanti a Dio. Luca 12, 6. Se è vero, come dice il detto popolare, che non cade foglia che Dio non voglia, devi comprendere, o meglio rapire, le benedizioni di Dio nell'ingiustizia. Anzi, vi sono benedizioni che tu non potresti ricevere se non ci fossero l'ingiustizia o situazioni insolubili nella tua vita. Può darsi che queste asserzioni ti trovino scettico, ma le seguenti riflessioni tratte dalla Scrittura metteranno in evidenza come Dio sia sovrano sul male, al punto da trarre un beneficio da esso. Come è scritto, anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode, e ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Salmo 76, 10. Prendiamo in esame alcuni esempi nella parola di Dio. 4. Sofferenza di astinenza. L'apostolo Pietro scrive nella sua prima lettera: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. 1 Pietro 4, 1. Quando ci ravvediamo e diventiamo credenti, resta ancora viva in noi l'inclinazione verso il male. La natura peccaminosa non è annullata dalla presenza dello Spirito Santo. Per questo il credente è l'unica persona al mondo che possiede due nature, la vecchia e la nuova. È un'utopia pensare che, con la conversione, spariscano anche le inclinazioni verso le cose sbagliate. Nella sua misericordia, Dio può anche operare questo. Ma la regola è che la santificazione avviene lentamente e progressivamente. Ne ho fatto esperienza in prima persona quando il Signore ha fatto di me un suo figlio. Avevo impulsi nuovi, desideravo pregare, leggere la parola di Dio, trovarmi con i suoi figli, ma nello stesso tempo desideravo ancora andare a ballare, anche se sapevo che quello non era più un luogo adatto per me. Ho dovuto rinunciare con uno sforzo di volontà a questo e ad altro. Questa era sofferenza di astinenza. Anche in altri casi vi sono sofferenze per causa nostra. Se una persona comincia a drogarsi e poi vuole uscire da quella spirale, è evidente che dovrà soffrire di astinenza. Così colui che vuole smettere di fumare non può riuscire nel suo intento senza volontà e sofferenza. Meno vizi si hanno, meno si soffre. Meno dipendenze ci creiamo, più vi è libertà. Un giorno mio figlio disse che considerava con invidia coloro che si erano convertiti dopo aver goduto di vari peccati. Gli feci notare che il guadagno era solo apparente, perché il peccato produce una schiavitù e, una volta redente, queste persone avrebbero avuto molte più lotte per vincerla. Coloro che toccano il fondo con il peccato possono essere in seguito spinti a ricercare una vita spirituale intensa. La maggior parte delle volte questa è soltanto compensativa, anziché essere vissuta per lo spirito. Spesso sono attratti da movimenti carismatici per sentire o vivere un cristianesimo ad alto livello. Più passano gli anni, più mi rendo conto che essere condotti dallo Spirito Santo significa vivere una vita nella normalità, nella serenità, senza troppe euforie o miracoli. Ne è una prova Giovanni il Battista, il quale, nonostante fosse il più grande profeta, non fece nessun miracolo né prodigio strepitoso. Del resto, la vita stessa ci insegna che noi possiamo svolgere le nostre quotidiane attività anche senza eccessivi entusiasmi, ma sorretti dal dovere e dal piacere di aver fatto ciò che è giusto. 5. Sofferenza cristiana. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. 1 Pietro 4,14. Così scrive l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. La sofferenza cristiana non è indirizzata in una sola direzione. Ecco un breve elenco di come il cristiano può soffrire. Per testimoniare del Signore, seminano con lacrime, Salmo 126. Meno per essere fruttuosi, fruttano con sofferenza, Luca 8:15. Meno per piacere a chi ci ha assoldati, soffri punto come un buon guerriero di Gesù, 2 Timoteo 2:3. Meno per rinunciare a un diritto, soffriamo ogni cosa per non creare ostacolo, 1 Corinzi 9:12. Meno per ricevere male piuttosto che farlo, perché non patite piuttosto qualche torto, 1 Corinzi 7. Meno per riprendere altri con amore, vi ho scritto in grande afflizione, 2 Corinzi 2, 4. Meno per chiedere e dare perdono, perdonatevi, punto come Cristo vi ha perdonati, Colossesi 3, 13. Meno per macerare il corpo, tratto duramente il mio corpo, 1 Corinzi 9, 27. Per mantenere la comunione, esorto a essere concordi nel Signore, Filippesi 4:2. Per far vivere Gesù, se il mondo vi odia, prima ha odiato me, Giovanni 15:18. Meno per seguire le orme di Cristo. Cristo ha sofferto, perché seguiate le sue orme, 1 Pietro 2:21. Meno nella preghiera, combattete con me nella preghiera, Romani 15:30. Meno per studiare la parola di Dio. Se tu cerchi, mi lado cerchi. Se scavi, troverai. Proverbi 2. Per non mostrare la sofferenza, ungiti, Matteo 6:17. Per rendere grazie, battuti, posti in prigione. Cantavano inni a Dio, Atti 16. Da Il Cristiano, del 1961, Artini Giannunzio. Gesù ha sempre invitato i suoi seguaci a portare la croce. E questa, a scanso di equivoci, è sempre simbolo di sofferenza. È vero che Gesù ha promesso anche delle benedizioni, ma, come per il riposo, sempre unite alle sofferenze. Marco 10, 28-30. L'atteggiamento più saggio di fronte alle contrarietà è quello di accettarle, perché esse ci portano vicino a Dio. Come occorre un po' di vento, contrario per far salire un aquilone così, la tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto il cuore diventa migliore, Ecclesiaste 7:3. La sofferenza fa parte della vita e, a ragione o torto, essa è sempre e comunque uno strumento nelle mani di Dio per formarci. Cristo imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e per questo divenne perfetto. Ebrei 4, 14-15 e 5, 5-10. Se Gesù è diventato perfetto, ciò significa che non lo era. Come poteva non essere perfetto il Figlio di Dio che non ha mai commesso un peccato? La parola perfetto deve essere intesa come completo. Essa sta a indicare che gli mancava solo la sofferenza umana per essere esattamente un uomo. Il fatto che fosse nato senza peccato non bastava. Doveva essere tentato e soffrire come un uomo. Se Cristo ebbe bisogno di soffrire per imparare l'ubbidienza e comprendere gli altri, non ne abbiamo noi più bisogno di lui. L'aiuto della psicologia. Ho esaminato questi 5 tipi di sofferenza, ma non ho certamente esaurito l'argomento. Anzi, esso diventa più complesso quando entriamo nel campo della psicologia. Prendo atto che non tutti i cristiani vedono favorevolmente la psicologia, se non addirittura che alcuni la demonizzano. Ma concordo con la testimonianza del cristiano medico e psicologo Paul Tournier. Le mie certezze della fede non mi impediscono di studiare da psicologo le motivazioni delle mie scelte, Poiché è per mezzo di questi meccanismi psichici che Dio ci conduce dove vuole, violence et puissance. Dalla scoperta di questa disciplina ho avuto un grande aiuto nel capire e accettare le circostanze negative per me e per il mio prossimo, e così ancora una volta ho intravisto i misteri di Dio. Ecco qui un trafiletto di uno psicanalista, Emilio Servadio, che può gettare luce sul nostro argomento. Una giovane signora, da me analizzata, comprese a poco che tutti i suoi amori infelici, incluso l'ultimo terminato con un matrimonio e con un'altrettanta rapida separazione, erano stati inconsciamente desiderati e voluti da una parte inconscia di se stessa, pur affermando coscientemente di voler incontrare un uomo che le desse pace e sicurezza. Questa donna tendeva inconsciamente a riprodurre situazioni di ansia e di timore, molto simili a quelle che, da piccola, aveva vissuto in famiglia con un padre incostante, dominatore di donne e sempre a corto di denaro. Analogamente, un giovane professionista aveva sempre fatto in modo di incontrare ragazze che potessero a un certo punto apparirgli come donne infide e crudeli, secondo un'immagine che egli si era fatto della donna, in epoche estremamente precoci del suo sviluppo psichico. La controprova, in questi due casi di fatalità interiore, era data dal fatto che quando la signora o il giovane avevano incontrato persone equilibrate e gentili, dalle quali non potevano attendersi amarezze, delusioni e burrasche sentimentali, le avevano lasciate subito cadere, dichiarandole del tutto prive di fascino. Osservazioni del genere sono state fatte da molti anni. La conclusione unanime è che nella vita psichica non ci è posto per il caso. Quando constatiamo che un uomo o una donna, in amore, negli affari, nelle amicizie, nelle iniziative, incontrano sempre e con grande frequenza gente cattiva e squilibrata, ostacoli e fallimenti, dobbiamo ritenere che essi soffrano di una nevrosi di insuccesso. E invece di imprecare contro il destino o di infuriarsi contro persone o eventi, essi farebbero meglio a cercare di risolvere i loro inconsci problemi personali con l'aiuto di uno psicanalista. Un'analisi del genere fa pensare, sofferenze cercate, sembra assurdo, ma è vero. Anche con la nostra modesta esperienza, osservando la vita di certe persone, abbiamo constatato la realtà di questa analisi. Il nostro inconscio esiste, non possiamo negarlo. Anche i credenti dell'Antico Testamento, ben prima di Freud, erano coscienti di questa parte sconosciuta dell'uomo. Ecco come pregavano. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Salmo 19,12. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se ci è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Salmo 139,23. I veri fedeli sapevano di camminare rettamente, ma erano altresì consci meno, molto probabilmente guardando gli altri, meno che potevano mancare inconsciamente in cose che rattristavano Dio. La loro sincerità li portava a invocare a Dio, di mettere in evidenza ai loro occhi ciò che per loro era nascosto e mancante davanti a Dio. Sono le contrarietà che mettono in evidenza o rivelano le nostre vere inclinazioni o difetti. E, solo chiedendole di camminare che scopriamo se una persona è zoppa. E, solo avendo nemici che scopriamo se il nostro amore è reale o fittizio. Come puoi risolvere i tuoi problemi inconsci? Innanzitutto, se ti trovi in una situazione che sembra senza via di uscita, o se continuamente ripeti gli stessi errori, chiedi a Dio di rivelarti quello che non va. Confessa che vuoi onorarlo con una vita giusta e santa, ed egli non mancherà di parlarti. Seconda cosa. Dal momento che Dio non usa sempre la sua parola per risolvere i nostri problemi, parla con un fratello o sorella che abbia la possibilità di aiutarti psicologicamente. Ho detto psicologicamente e non spiritualmente. Questo non significa consultare per forza uno psicologo, perché vi sono credenti che, oltre ad avere una spiritualità evidente, hanno pure il dono di ascoltare e capire in modo particolare il prossimo. Perché consiglio questo? Sempre per lo stesso principio. Noi siamo uomini prima di essere cristiani e abbiamo molti dei problemi psicologici che hanno gli increduli. A questo proposito vorrei raccontare due esperienze. Soffrivo di dissenteria. Mia moglie mi chiese il motivo e io risposi che non lo sapevo. Vedendo che la cosa si prolungava, lei insisteva perché andassi dal dottore, ma io, sempre restio a farmi curare, non volevo andarci. Allora ella mi chiese se la causa non fosse un impegno che avevo preso di recente. A un tratto sentii come una scossa partirmi dall'alto e fermarsi nel ventre. Risposi di sì. Al suo insistere di andare dal dottore risposi che ero guarito. Lei era incredula, ma le chiesi 2 giorni di tempo. E se la dissenteria non fosse scomparsa, sarei andato dal dottore. Non ne ebbi più bisogno. Quando nacque mio figlio Davide, mia moglie aveva poco latte. Dopo 1 mese dovemmo partire per Torino, per una grave necessità. Appena arrivammo alle porte di Torino, dove mia moglie è nata e vissuta per 24 anni e di cui soffriva tanto la lontananza, le venne tanto latte che le usciva perfino. Questi esempi dimostrano che dobbiamo accettare l'esistenza di sofferenze inconsce, che condizionano la nostra salute e il nostro stato d'animo. Per questo non sempre dei buoni versetti biblici possono risolvere tutti i problemi. Certo, Dio con la sua parola può toccare il nostro inconscio, ma questo non rientra nel suo metodo normale perché, come disse Gesù, sono i malati che hanno bisogno del medico. Prima di essere dei cristiani siamo uomini, perciò dobbiamo anche essere curati come tali. Concludendo, possiamo enunciare che la sofferenza e le contrarietà sono indispensabili e inevitabili per la crescita di un figlio di Dio. Ecco la testimonianza del salmista. Prima di essere afflitto, andavo errando, ma ora osservo la tua parola. E ancora, è stata un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. Salmo 119, 69 e 71. Lo scopo principale di Dio è quello di avvicinarci a Lui, perché solo Lui è la vera felicità. La Scrittura spiega in che modo Dio compie quest'opera. Come un'aquila che desta la sua nidiata, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali. Li prende e li porta sulle penne. Deuteronomio 32, 11. L'aquila madre insegna a volare ai suoi piccini, rendendo il nido scomodo in modo che essi siano costretti a lasciarlo e ad abbandonarsi allo sconosciuto mondo dell'aria. Spesso noi stiamo comodi nel nostro nido e perciò non voleremmo istintivamente verso il Signore, non esercitando mai le ali della nostra anima. Egli, con circostanze dolorose, avverse, ci costringe a percorrere dei terreni dove necessariamente siamo costretti a imparare e a rafforzare la sottomissione, la pazienza, la misericordia, la fede e l'amore. In questo modo ci eserciteremo a un vero canto nel nostro cuore. Solo le creature che volano cinguettano. Il canto cristiano non è un'emozione, anche se può produrre un'emozione, ma è la serena fiducia di chi sa che Dio ci ama e ha cura di noi. Diciamo con il salmista: io so, Signore, che i tuoi giudizi sono giusti e che mi hai afflitto nella tua fedeltà. E ancora, se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Salmo 119, 75 e 95. La risposta cristiana alla sofferenza, vedere File con questo titolo, la risposta cristiana non annulla ciò che abbiamo detto. Giobbe disse: l'uomo è nato per soffrire, come la favilla per volare in alto. 5.6. La sofferenza è quindi vista come la conseguenza inevitabile del fatto che si esiste. È l'ombra normale di ogni vita umana. Ma perché i cristiani si pongono interrogativi in merito alla sofferenza? Perché dietro a questo interrogativo si parte dal presupposto che esista un Dio buono, e perciò inconciliabile un Dio buono con la sofferenza. Se Dio è buono e l'uomo soffre, allora è impotente a togliere il male, altrimenti, se è onnipotente e non evita all'uomo di soffrire, allora non è buono. Questo è il grande dilemma. Potremmo cercare di dare una risposta con la nostra logica, ma visto che le nostre valutazioni sono mutabili e imperfette, prendiamo in esame come Dio si è rivelato a noi uomini tramite la sua parola. 1. La sofferenza è il risultato di una ribellione dell'uomo. Genesi 1 a 3. Il primo libro della Bibbia ci fa comprendere che il male è entrato nel mondo causa la disubbidienza dell'uomo. La donna avrebbe partorito con dolore, l'uomo avrebbe fatto fatica a lavorare, la terra non avrebbe prodotto sempre cose giuste, ci sarebbe stata disarmonia all'interno della coppia. 3.16.19. Questa è la logica conseguenza di chi vuole fare di sua testa. Come un bambino che si ribella all'ordine dei suoi genitori e si trova nei pasticci o si procura dolori. 2. La sofferenza è il risultato della disubbidienza dell'uomo. Esodo 20. I 10 comandamenti. Dio ha dato delle leggi perché l'uomo potesse vivere in armonia con il mondo, con il prossimo e con Dio. Ma l'uomo continua a fare di testa sua, per cui ne porta le conseguenze. La colpa non è di Dio. Sekik, è del male, dell'ingiustizia, del dolore, della sofferenza. E come incolpare il codice stradale? Perché ci sono degli incidenti. Se ognuno seguisse il codice stradale, tutto andrebbe bene, come andrebbe meglio la vita, e non ci sarebbe un certo tipo di sofferenza se tutti facessero la volontà di Dio. Se l'uomo soffre perché è derubato o accusato ingiustamente, la colpa non è di Dio, ma di chi ignora la legge divina, che ordina di amare il prossimo. 3. La sofferenza è il risultato della natura dell'uomo. Giacomo 1.12-15. Se accettiamo di essere corrotti, inclinati al male per natura, allora accetteremo anche che continuamente siamo soggetti a tentazioni e a stimoli sbagliati. Il sesso è un dono buono di Dio, ma desiderare illecitamente un'altra donna è sbagliato. Mangiare è lecito, ma l'ingordigia spesso porta malattie. 4. Dio procura la sofferenza. Ebrei 12.7-11. Proprio perché siamo disubbidienti per natura, Dio è costretto a frenare le nostre inclinazioni. È quel padre che non impedisce al figlio di toccare il forno caldo. Il bambino piange perché non ha soddisfatto la sua curiosità, ma è stato per il suo bene. La sofferenza in questo caso è la prova dell'amorevole attenzione del Dio Trino. 5. La legge della natura trasmette la sofferenza. Romani 5.12. Come Adamo ci ha trasmesso la sua inclinazione sbagliata, così ci ha trasmesso anche la sofferenza fisica. Un diabetico trasmette il diabete ai suoi figli. Un ubriaco genera figli anormali. Un drogato trasmette LDS ai suoi figli. Se Dio impedisse alla legge naturale di agire, non esisterebbe il mondo stesso che è regolato da leggi. 6. La sofferenza glorifica Dio. Giovanni 11.4. Alcune malattie sono date perché Dio venga glorificato. Quanti credenti hanno ringraziato Dio per una guarigione, una protezione? La sofferenza mette in evidenza un aspetto del carattere di Dio. Come il peccato mette in evidenza la grazia, così una sofferenza evitata o tolta mette in evidenza la risposta alle nostre preghiere. 7. La sofferenza porta vicini a Dio. Ecclesiaste 7.3. Tutti abbiamo fatto questa esperienza. Il solo fatto che ci siamo convertiti è perché eravamo nell'angoscia. Il proprietario di uno stabilimento di piscicoltura si lamentava dei suoi pesci, che non riproducevano. Un amico gli ha consigliato di mettere un luccio nel vivaio. Un luccio? Sei matto? Sarebbe come mettere un lupo in un ovile? Vedi, le tue trote si compiacciono nella loro inoperosità. Introduci un luccio. Ne mangerà qualcuna, ma le altre scapperanno e la presenza di un nemico le risveglierà. Troppa bambagia fa dormire. 8. Vi è la sofferenza per la fedeltà a Dio. Filippesi 1.29. Paolo considera una grazia di poter soffrire per Cristo. E un dono, perché in cielo ne avremo il premio. 9. Vi è la sofferenza per astinenza. 1 Pietro 4.1. La chiamata del cristiano è quella di non adempiere i desideri della carne. Questo pensiero deve occupare costantemente la nostra mente. 10. Si soffre causa il diavolo. Luca 13.10-13. Come per Giobbe, a volte Dio può permettere certe prove. 11. Si soffre per diventare infermieri di chi soffre 2 Corinzi 1, 1 a 7. Solo soffrendo possiamo imparare a consolare gli altri. La sofferenza è uno strumento nelle mani di Dio per perfezionare i santi. Ho visto in primavera l'albero nella sua bianca fioritura. L'ho visto d'estate ornato di verde. D'inverno non vidi più quelle verdi fronde, non più fiori, più nulla, ma attraverso i rami spogli potevo vedere il cielo. Consiglio. Gioia nel dolore. Coraggio nella crisi. Casa della Bibbia James E. Means,